Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino ad oggi ho venduto un iPod, una Vespa, una videocamera e un avvitatore. E poi una racchetta da tennis, delle catene da neve, una cerata da barca, un quadro e una bottiglia. Ma è ancora poco, perché io voglio vendere tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un costume da clown. Sono le 16.08, oggi è martedì 16 febbraio 2010, cioè è martedì grasso. Un buon martedì grasso a tutti quelli che ascoltano, a chi gliene frega e anche a chi no, un po' come tutti quelli fondamentalmente che si trovano in questa redazione in questo momento. È martedì grasso in tutta Italia, tranne che a Milano, giusto? Perché a Milano, abbiamo appena detto prima, che non avevamo capito quando era il martedì, a Milano il martedì grasso è dopo, una settimana dopo, perché tutto il carnevale è una settimana dopo. Pietro Lacorte mi guarda come fossi un pazzo, però giustamente lui è di Palermo. Cosa vuoi che ne sappia? Allora, ho messo su Facebook, come al solito tutti i giorni faccio, l'oggetto del giorno da vendere, e oggi vendo il costume da clown. Solo che per fare la foto al costume da clown mi ci sono messo dentro io, perché il costume da clown sembrava un po' poverino senza nessuno dentro. Sembra molto più poverino, devo dire, con me dentro. Vi ringrazio per i commenti che mi avete mandato sulla pagina Facebook. Ma alla domanda da cosa vi siete vestiti, e in particolar modo qual è il costume più assurdo che vi siete messi, Filippo mi scrive: ogni anno quando si avvicina febbraio inizio a fantasticare sul vestito, ma puntualmente Nisba. L'ultima volta, penso a 10 anni circa, mi sono vestito da puffo. E poi ancora Manuel mi scrive: io mi vesto ogni anno da ranger, con tanto di pistola e distintivo. Non me ne vergogno affatto, anzi mi diverto un sacco. D'altra parte, Manuel, a ciascuno il suo. Marco, ma tutti... Ah, ecco, io a carnevale mi vestivo con abiti normali, ma tutti completamente neri, un po' come il tipico abbigliamento dei mimi. L'idea era di vestirsi da se stessi e non da maschera, finché uno mi ha detto: ti sei mascherato da iettatore. Ed effettivamente, Marco, come dargli torto? 80024 0024 oppure 349 238 6666. Mi piacerebbe sapere. Io effettivamente non ci ho mai avuto grande fantasia, ma bene che andasse Zorro, cowboy e il clown, punto. Però mi piacerebbe sapere qualcuno che si è vestito in maniera veramente assurda, cioè quella roba che è talmente assurda che non ti viene neanche in mente quando ci pensi. Tipo, l'abbiamo detto prima, non mi ricordo qual era il film, Karate Kid. In Karate Kid lui andava a una festa in maschera vestito da doccia, giusto? Ok, ecco, una roba tipo quella mi piacerebbe avere. 80024 0024 oppure 349 238 6666 per i vostri costumi da carnevali più assurdi che siano stati 10 anni fa, un anno fa o magari chissà perché no, anche questa sera. Questa invece è la storia del mio costume da clown, che è un costume normalissimo, lo potete vedere sulla pagina di Facebook oppure sul sito radio24.it, e invece la sua storia sta per partire. Il costume da clown, tuta intera gialla e rossa con collo blu, taglia media bisex, materiale sintetico, comprensivo di un cappello da pagliaccio dello stesso colore del costume e di una parrucca gialla. Perfetta per il carnevale e le feste in maschera, ma anche per mimetizzarsi tra i pagliacci del circo. Valore commerciale 25 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Una volta da bambino mi hanno puntato contro una pistola. Non era una pistola vera, però io non lo sapevo. E non è stato bello. Era carnevale. Non c'è niente da fare, io non ho mai sofferto il carnevale. Ho sempre avuto la sensazione che in quella settimana uscire per strada fosse pericoloso, anche se erano le strade di un paesino di 4.000 abitanti, come il mio. C'era un'aria di libertà incondizionata in quei giorni che non mi dava fiducia. Si chiamava Salvatore Ciccarese, quello che mi ha puntato la pistola in faccia. Non era nemmeno vestito da carnevale lui. Io sì, invece. Anche se in realtà mi vergognavo di essere vestito da Zorro, perché Zorro è un eroe senza paura e io no. Quindi, visto il costume, avevo più diritto io ad essere in giro che non lui, che aveva addosso solo un paio di jeans coloriti e un bomber verde. Voglio dire, se a carnevale vale tutto, no? Anche andare in giro con una pistola scacciacani, almeno devi essere vestito da qualcosa, giusto? Che ne so, da cowboy, da gangster. Guarda, pure solo da vigile urbano, se vuoi. Lui invece sosteneva di essere vestito da ultra, che a me non pareva un personaggio da cui ci si potesse travestire. Però non era il caso che glielo dicessi. Salvatore aveva 3 anni più di me, quando io ne avevo 12 e giravo vestito da Zorro per le strade del mio paese. E ne ha 3 più di me ancora adesso, che ne ho 34 e per quelle strade non ci giro più. Eppure l'ho incontrato qualche settimana fa, mentre ero a pranzo dai miei. Spingeva una carrozzina con dentro un bambino e mi ha salutato cordialmente, come chi non ti veda da una vita ma ha qualcosa che ti lega a lui. Non so esattamente cosa legasse lui a me. Di sicuro ciò che legava me a lui era la paura di quel giorno di carnevale, in cui mi sembrava grande, mi sembrava cattivo e pronto a sparare. Mentre oggi è una persona con una famiglia, un lavoro e già un pizzico di arrendevolezza negli occhi. Ecco perché non mi piace il carnevale. Perché mostra le parti più buie. Dietro ad una maschera non si ha più paura. Dietro ad una maschera vale tutto. Anche solo riempire di schiuma un poveraccio vestito da Zorro o prenderlo a manganellate. Il mio momento preferito del carnevale era il martedì grasso, quando nel cortile dell'oratorio si dava fuoco ad una pila di legna. Mi piaceva un po' perché in quel falò si bruciavano tutte le scaramanzie e le paure, e un po' perché era il segno che il carnevale era finito. In età adulta poi sono riuscito ad evitare le feste di carnevale, quelle in maschera, non più per paura, ma per noia. Quando però Giulia mi ha chiesto di andare ad una di quelle feste, io ho pensato che mi sarei dovuto vestire da personaggio allegro e divertente. E mi comprai proprio questo costume da clown. Il problema è che il clown non è per niente un personaggio allegro. E dire che avevo pure letto un romanzo bellissimo, un romanzo in cui il protagonista era proprio un clown triste che racconta il fallimento della sua vita dopo una caduta durante uno spettacolo. È un libro meravigliosamente malinconico, si intitola Opinioni di un clown, e ve lo consiglio anche se non vi siete mai vestiti da pagliaccio. Per non parlare poi del film, di quel film, che avevo visto da piccolo, e che mi aveva tenuto lontano dai clown per anni. Ciao, George! Non vuoi dirmi ciao? Allora, George, mi voglio presentare. Io sono Pennywise, il clown danzante. La rivuoi la tua barchetta, non è vero? Certo che la rivuoi. E ci sono anche lo zucchero filato, la cioccolata, le giostre e tante altre sorprese qui sotto. E galleggiano? Oh, sì, certo che galleggiano, George. E anche tu galleggerai. Il film si intitola It ed è tratto dal romanzo di Stephen King, in cui, giusto per la cronaca, il protagonista terrificante è proprio un clown. Insomma, voglio dire, elementi per capire che travestirmi da pagliaccio non era una scelta azzeccatissima, ce n'erano. Però un'amica di Giulia l'aveva invitata a questa festa in maschera e l'unico costume che avevo trovato era questo. Che poi l'avevo comprato al supermercato e già lei non era felicissima. E soprattutto non faceva pandan con il suo, che aveva preso in affitto ed era un costume da Catwoman. Ora, vi risparmio le discussioni sui supereroi e su quanto sarebbe dovuto essere chiaro che io mi vestissi da Batman visto che lei era Catwoman. Io ho provato a dirle che mi pareva un po' scontato vestirsi da coppia di supereroi tipo Superman e Wonder Woman, però lei non era d'accordo. Sosteneva che io facevo sempre di tutto per essere diverso dagli altri, che sinceramente, cioè, mi pareva pure un'argomentazione stupida visto che stavamo andando ad una festa di carnevale in cui tutti fanno di tutto per essere diversi dagli altri. Vabbè, quando siamo arrivati però ci siamo accorti che era esattamente il contrario, e cioè che lei era l'unica supereroina, mentre tra clown e pagliacci eravamo almeno in 7, di cui una ragazza con il mio stesso costume, identico, preso nello stesso supermercato. Solo che io avevo la parrucca arancione e lei ce l'aveva viola. Ammetto che a differenza di quanto avevo sempre pensato sul carnevale, all'inizio la serata fu piuttosto divertente. Cioè, tutti quanti sembravamo dei cretini vestiti da imbecilli, però il clima era buono, nel senso che tutti eravamo consapevoli di sembrare dei cretini vestiti da imbecilli. E questo dava alla serata un'aria di consapevolezza, di distacco, che a me piaceva. Tutto correva liscio, insomma. Nonostante non avessi la pallina rossa sul naso, era inequivocabile che fossi un pagliaccio. E di questo evitava l'imbarazzo di quando la gente si avvicina e ti chiede «Ehi, ciao, da cosa sei vestito?» Quando invece per te ovviamente è scontato da cosa sei vestito. Dicevo, tutto è filato liscio fino alla premiazione della coppia della serata. Giulia aveva trovato un suo amico, un tizio con un addosso un costume di gomma piuma che sosteneva essere un vestito da uomo roccia, e quindi loro erano convinti di vincere. Però evidentemente alla giuria erano piaciuti i due costumi identici, e quindi vincemmo io e la ragazza clown. Inutile dire che questo non piacque a Giulia, inutile dire che chiusi questo costume in un armadio e non lo tirai più fuori. Ecco perché, nonostante le paure, Stephen King e le opinioni di un clown, questo costume da pagliaccio è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 25 euro, la base d'asta però qui sono 99 centesimi. Per raccontarmi i vostri costumi di carnevale più assurdi, 800240024. 16:19 Radio 24, partiamo col dare innanzitutto un po' di delucidazioni sul carnevale ambrosiano, perché mi scrivono e li ringrazio. Il carnevale ambrosiano è solo 3 giorni dopo. Un altro mi scrive: il carnevale a Milano non dura una settimana in più, ma solo 4 giorni in più, fino a Sabato Grasso, Achille. E poi invece ai costumi più assurdi, perché c'è gente che si è sbizzarrita. Mi piacerebbe prima o poi mettermi in mutande, dipingermi di rosso e andare in giro a dire che sono vestito da conto corrente. Un anno mi sono vestito da ripetitore della Rai, nel 90 mi sono vestito da lampadina, fatto in garage con intagliatura in filo di ferro. Il più bel costume che ho mai avuto è quello da passator cortese, mentre il più assurdo è quello da living in America, nessuno l'ha mai capito. E poi il mio preferito, io 2 anni fa mi sono vestito da bitumiera. Invece 800240024, di gente con una certa fantasia carnevalesca ce n'è parecchia. Andiamo a Brescia da Giuseppe. Pronto? Ciao, grazie. Ciao Giuseppe, ma figurati, ciao. Grazie a te di aver chiamato per primo. Da cosa ti sei vestito, Giuseppe, tu? Allora, io mi sono vestito circa 7-8 anni fa da attaccapanni. E sei andato diciamo che ho sempre avuto una discreta fantasia per queste cose. Cioè, ma... per che altro tipo di cose, scusa Giuseppe? Cioè, per i vestiti di carnevale e altro in genere o proprio per i vestiti di carnevale? No, anche per altro in genere. Per i vestiti di carnevale ho sempre avuto delle buone idee, ma non ho mai portato avanti nessun discorso. E invece quell'anno lì il discorso dell'attaccapanni proprio hai deciso? Cioè, ma cosa avevi in testa? Come hai rimesso? Facci capire. Beh, quell'anno lì, tornando a casa, facendo tutto di corsa come al solito, mi venne in mente questa idea, presi un attaccapanni vecchio, gli staccai, diciamo, le gambe dell'attaccapanni, il classico attaccapanni, certo, quello che si mette sul balcone. Gli staccai le gambe e lo legai in vita con una cintura, attaccandoci mutande, calzini, magliette. Poi presi un paio di attaccapanni. Ma scusami, ma uno stendipanni? Sì, ecco, uno stendipanni. Ah, ok. Sì, cioè, quindi avevi i cavi tirati anche? Avevo i cavi tirati sulla testa, sì. Giuseppe, senti, io ti starei a sentire per ore, però purtroppo altre telefonate, ma sei un genio. Ti ringrazio, bene, Giuseppe. Grazie, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo da Paolo a Livorno. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Paolo, come va? Bene, molto bene. Senti, da cosa ti sei travestito tu? L'attaccapanni non è male, vediamo se sai fare di meglio. No, io negli anni '80, insieme a mio amico Luca Rossi, non so se mi sta sentendo ora, a Firenze, io mi sono vestito da aeroplano e lui da aviatore, e si andava a giro per Firenze. Però io ho telefonato alla trasmissione perché mi è venuto in mente di vendere tutto. Ma io ho venduto tutto davvero. Quando l'hai fatto? Anni fa, casa, negozio, fidanzata e tutto. Mi sono trasferito al mare, a Vada, dove non faccio niente, faccio solo windsurf e mi diverto dalla mattina alla sera. Senti Paolo, guarda, facciamo così: il tuo numero noi lo teniamo e ti richiamiamo un'altra volta, così parliamo con calma a proposito di questo. Per ora mi tengo il vestito d'aeroplano che mi piace, poi parliamo anche della tua vendita di tutto. Ok? Quando vuoi. Grazie Paolo. Sono sempre libero io. Lo immagino, a parte quando ci sono onde. Ciao, grazie. Andiamo a Rimini da Marco. Pronto? Pronto. Ciao Marco. Ciao. Tu secondo me ce l'hai in canna grossa proprio. No, io veramente ho avuto un trauma da piccolo, secondo me, perché mia mamma mi faceva vestire da Robin Hood e io mi vergognavo ad andare in giro con la cassa maglia verde. Quando ho raggiunto un po', beh dai, via 20 anni, sì, ho pensato di vestirmi da brufolo, anche perché, vabbè, insomma, un vestito semplice, no? Com'è il vestito da brufolo? Pantalone rosso, maglia rossa, faccia rossa, chiaramente, tutto rosso, ero, e una bella cuffia gialla. Ma che schifo, scusami, fa veramente, detto così fa veramente schifo. Però, lo so, fa schifo, però ma il bello non è che male. A una certa ora della sera, perché sono andato a una festa, quando un po', sai, si è bevuto un pochettino. Immagino. Dai. Ma la gente ti chiedeva da cosa eri vestito oppure era chiaro? No, beh, me lo chiedevano. Io dicevo da bugno, ma sai, adesso lasciamo perdere. Non voglio dire schifese, perché a una certa ora capisci. Ah, il bugno, cioè, è il brufolo, il bugno, certo. Il brufolo si può anche schiacciare, no? Va bene, mi fermerei qui, Marco, però ti ringrazio molto. Ciao e buona giornata. Grazie, ciao. Andiamo a Venezia da Anna. Pronto, Anna? sì, ciao. Ciao, come va? Tutto bene? Bene, grazie, sì, sì. Brava. Sei un po' intimidita, Anna? No, è carina, stavo ascoltando. Dimmi da cosa sei vestita tu. Allora, io ieri sono andata a Venezia e mi sono vestita con la mia bimba che ha un anno e mezzo, l'ho messa su un marsupietto tipo zainetto dietro le spalle e era ricoperta da una scaffa rossa con i poneri ed era vista la coccinella con tanto di antennine e tutto e io ero agghindata da albero tipo drag queen con un sacco di rami in testa, foglie, etc. Ho perso un po' il passaggio dall'albero alla drag queen, però... No, perché la mia mega parruccona era tipo tutta fatta da vari rami foglie. E questo è accaduto ieri, Anna? Sì, esatto. E ti hanno chiesto... l'albero e la mia bimba era la coccia. Ti hanno chiesto da cosa eravate vestita oppure era chiaro? Si capiva, era chiaro, no. Carini. Eravate carinissime. Lei era contenta oppure... Sì, no, lei era comoda, era io che dovevo camminare. Anna, grazie mille. Grazie. Ciao, buona giornata. Andiamo all'ultima telefonata, andiamo in provincia di Vercelli da Daniele. Pronto? Ciao. Ciao Daniele, tutto a posto? Dunque, io mi sono vestito tanti modi. Sì, però quello più assurdo? L'ultimo, quello che ho vinto la gara, che era anni che ci tenevo a vincerla. Sì. Mi sono vestito da tavola in bandita, mi sono fatto il tavolo attorno alla vita, rotondo, con tutte le posate, i piatti, sì, la porta, il salame, il formaggio e finché ce n'è. E io facevo il candelabro in mezzo al tavolo. Perfetto, guarda Daniele, mi basta questa perché purtroppo devo chiudere. Però secondo me sei davvero in testa alla classifica. Sei vicino a quello che era vestito da brufolo. Va bene. Grazie mille, ciao Daniele. Ciao. Io vorrei chiudere con alcuni messaggi invece, prima di dare la parola a Pietro Lacorte, che vuole mandare la lista dei miei desideri, se non sbaglio. Atlantino, 20 anni fa mi sono vestito da Claudio Caniggia con maglia dell'Argentina numero 7 e poi soprattutto io mi sono vestito da termometro. Io ancora non sono vestito da niente, però so che cosa voglio fare con i soldi della vendita di tutti i miei oggetti, compreso il mio costume, ed è esaudire questi desideri. Il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi, scalare il Monte Rosa, attraversare l'Atlantico su una nave cargo, lanciarmi col paracadute da 6.000 metri, sposarmi a Las Vegas, non importa con chi, giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo, portare a cena fuori Natalie Portman, fare un viaggio in mongolfiera, spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli, imparare a suonare la batteria, incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama, fare un viaggio con la Transiberiana, vedere una finale del Super Bowl, vedere il Taj Mahal, attraversare la foresta amazzonica, vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada, imparare il cinese, imparare l'arabo, prendere il brevetto da pilota e quello da sub, e poi imparare a camminare sul filo. Ero vestito solo con una mascherina nera sugli occhi. A tutti quelli che dicevano, beh, tutto qui, rispondevo che ero vestito da porno attore amatoriale. Ringrazio Laura Faggini, che oggi è bellissima e taccatissima, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Pietro Lacorte e soprattutto Salvatore Ciccarese, che presta il nome e la sua professionalità tutti i giorni a questo programma. Per vedere il mio costume da carnevale, con me dentro, ovviamente andate sul sito radio24.it. Domani vendo invece un oggetto piccolo, ma fondamentale, perché ha voglia di sapere quanti passi compie tutti i giorni. Domani vendo un contapassi. Passi. Voi intanto, se andate ad una festa di carnevale stasera o quando capita, godetevi il vostro costume e poi liberatevene, che alla fine pure un costume è solamente un costume. Love, love, love, wherever you...